e ho cercato fino in fondo la verità anche sulle loro morti. E come posso, anche con una funzione diversa, non ho perso di vista i miei obiettivi di legalità, di giustizia e di ricerca della verità. In questo libro dedica anche una grande parte ai cosiddetti pentiti e lei descrive, diciamo, questa fase dei collaboratori di giustizia iniziata nel momento in cui Buscetta inizia appunto a parlare con Falcone. Nel momento in cui lei si è trovato di fronte Buscetta o altri collaboratori di giustizia, qual è stata la sua prima reazione? Ma la mia prima reazione veniva da quello che Giovanni Falcone ci aveva insegnato, nel modo con cui si dovevano trattare questi pericolosissimi delinquenti che avevano fatto delle cose terribili, però lo Stato ne aveva bisogno e bisognava far sì che si ponesse un tavolo sempre fra noi e loro, senza una sorta di discorsi al caminetto, no? No, io sono lo Stato, diceva Falcone, e voi siete quelli che mi devono convincere della verità che voi rappresentate. Quindi cercava tutti i particolari nel loro racconto per poter trovare i riscontri. Questa tecnica l'ho appresa appunto da loro, quindi l'ho attuata anche nella mia professionalità. Il problema era sempre quello di dire a loro: mi dia contezza a me che sono lo Stato e non sono io che ho bisogno di voi. Non bisognava mai fargli capire che un argomento ci interessava particolarmente, perché magari avrebbero enfatizzato, potevano essere distolti dalla verità. Non bisognava mai fare dei nomi, devono farli loro. Tutte queste piccole astuzie innanzitutto devono essere credibili per noi e poi dovevamo renderli credibili per i giudici che dovevano successivamente sentirli, perché questa è stata una grande rivoluzione da un punto di vista probatorio. Tutti i processi precedenti erano sempre finiti per assoluzione o insufficienza di prove, perché la mafia, Cosa Nostra, non lasciava documenti, non c'erano testimoni, c'era l'omertà, nessuno denunciava e quindi era impossibile trovare le prove. Noi abbiamo stravolto il sistema probatorio attraverso questo grimaldello, però doveva essere credibile, perché potevano essere anche dei boomerang che appena trovavi che non avevano detto una cosa veritiera, tutto il castello delle cose che avevano costruito crollava e diventava inattendibili. E questa era la precisione, la pignoleria con cui dovevamo cercare che nessun particolare fosse stonato. Una breve pausa, poi riprenderemo con l'intervista a Pietro Grasso sul libro Storie di sangue, amici e fantasmi, pubblicato da Feltrinelli. Dimentica i compromessi, scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta Il cacciatore di libri. E riprendiamo con l'intervista a Pietro Grasso sul libro Storie di sangue, amici e fantasmi, ricordi di mafia, pubblicato da Feltrinelli. Un libro nel quale l'attuale presidente del Senato racconta la storia della lotta alla mafia e soprattutto il suo rapporto personale con Falcone e Borsellino. Per tanti anni lei si è concentrato sulla cattura di Provenzano, che sembrava essere appunto introvabile, 43 anni di latitanza. Il giorno in cui è stato appunto preso, lei ha ricevuto questo messaggio, è stato preso, e poi l'ha incontrato. Cosa vi siete detti? Ma io l'ho incontrato alla squadra mobile di Palermo. Sapevo che lui aveva una malattia alla prostata e gli ho chiesto se aveva bisogno di qualcosa. Lui mi dice: sì, devi fare in giornata una puntura e ho con me la medicina. Nel frattempo, nell'attesa che arrivasse il medico, non potei trattenermi dal rivolgergli una frase un po' criptica, ma che sapevo che lui avrebbe capito, e gli dissi: signor Provenzano, io sono siciliano come lei, sappia che per fare qualcosa di utile per la nostra Sicilia io sono disponibile. Era un invito alla collaborazione. Lui capì subito la pericolosità di questa frase, quindi si bloccò come una statua di sale e nessun muscolo del suo volto si mosse, perché lui aveva paura di dare un qualsiasi segno di assenso. E poi, riflettendo molto sulle parole, disse sì. Nel senso, siamo disponibili entrambi, ma ognuno secondo il suo ruolo. Nel senso, tu fatti il capo dell'antimafia, io faccio il capo della mafia, io penso di continuare a fare il bene alla Sicilia. E ha mantenuto questa posizione fino alla sua morte. Tanti misteri se li è portati con sé nella tomba, non ha mai accennato ad alcuna collaborazione. E questo è un rammarico, perché avrebbe potuto chiarire tanti misteri d'Italia e del nostro paese, della storia del nostro paese, soprattutto per i rapporti con la politica. Rina è un altro boss che potrebbe chiarire tante tante cose. Beh, certamente anche lui, sappiamo da altri collaboratori che lui è stato al vertice dell'organizzazione e quindi soprattutto i rapporti con i rapporti esterni dell'organizzazione. Io ricordo nel libro un momento in cui avevano commesso l'omicidio di Chinnici, che era il capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, era l'83. Erano già stati fatti altri omicidi come la Torre dalla Chiesa, Mattarella, il procuratore Costa, Giuliano. E Brusca, dinanzi ai giudici di Caltanissetta, fa una deposizione dopo la sua collaborazione in cui dice che dal governo centrale era arrivato un segnale tramite i canali Lima e I Salvo, un segnale di darsi una calmata, cercare di limitare queste azioni così terribili perché avrebbero certamente provocato una repressione. E lui riferì a Rina questo messaggio. La risposta di Rina fu arrogante: ci lascino fare, siamo stati più volte a disposizione e ne abbiamo fatti di favori. Se Rina potesse farci capire quali sono stati questi favori, forse la storia avrebbe un po' più di verità. Al termine di questo libro c'è una lettera, appunto, dicevamo, a Paolo Borsellino. Mi ha colpito molto l'incipit di questa lettera, perché lei scrive: caro Paolo, quanto sono lunghi e quanti sono potenzialmente pieni di vita 57 giorni, perché tanti sono i giorni che passano dalla strage di Capaci a quella di via D'Amelio. Che cosa c'è stato in quei 57 giorni? Ma intanto ho visto il volto di Paolo cambiare completamente espressione. Lui, che era una persona allegra, sempre sorridente, pronto alla battuta, diventò triste, livido di rabbia e di dolore. E poi si dette freneticamente al lavoro. Lui era arrivato da poco alla procura di Palermo come procuratore aggiunto da Marsala e quindi si dette da fare, però non aveva ricevuto l'incarico di occuparsi della zona di Palermo, ma aveva avuto quella di Trapani, e questo lo angustiava perché voleva occuparsi dell'indagine soprattutto su Cosa Nostra palermitana. Avevo una frenesia terrificante perché frattanto c'erano dei pentiti che chiedevano di parlare solo con lui, perché capivano e sapevano che era affidabile soltanto lui. Questo lo faceva soffrire ed era in contrasto col procuratore capo di allora. Dopodiché si dava comunque da fare e riusciva con frenesia, appunto, a fare il suo lavoro, alla ricerca della verità anche lui, di capire. E qualche idea sicuramente se l'era fatta ed era pronto a andarla a riferire a Caltanissetta, che era la procura competente per le indagini, solo che non fece in tempo. Vorrei concludere con un messaggio però di speranza, di positività e di possibilità di fare. C'è una storia molto bella che lei ricorda in questo libro, che è la storia di una donna di mafia che si è pentita grazie alle figlie che avevano appreso proprio il concetto della lotta alla mafia a scuola. Uno pensa a volte che siano parole così molto superficiali, invece effettivamente la scuola e comunque la cosiddetta società civile e il cambiamento culturale possono aiutare nella lotta alla mafia. Ma io penso che si sono fatti grandi passi avanti in questi 25 anni proprio su questo piano, oltre che sulla repressione giudiziaria attraverso magistrati e forze dell'ordine. Diceva Borsellino: io quando avevo 15 anni ero in classe con figli di boss e tutti li rispettavano. Oggi non è più così. tant'è che le due bambine, le figlie di Carmela Iuculano, che erano a scuola e facevano un percorso di legalità, si sentivano appestate, ghettizzate e non potevano più sopportare questa situazione, e sono state loro proprio a chiedere alla madre di collaborare con la giustizia, anche a costo di denunciare particolari che avrebbero costituito degli elementi di prova nei confronti del padre. Ecco, pensare che dei bambini riescono a convincere gli adulti a collaborare con la giustizia, a passare alla parte della legalità, e ci dà questa speranza della scuola. Ma non è solo la scuola, perché non sono solo i docenti che hanno questo lavoro. Abbiamo visto sindaci che recuperano il loro territorio, giornalisti che denunciano il malaffare e che per questo vengono scortati. Vediamo anche dei cittadini che non vanno a comprare le cose nei negozi che pagano il pizzo, vediamo quelli che denunciano il pizzo, vediamo cittadini che si indignano, cittadini che protestano, che finalmente hanno la voglia di alzare la testa dalla quella che è la prepotenza, la prevaricazione, il privilegio che è costituito da tutto il sistema mafioso. E questo è il frutto del lavoro di Falcone, di Borsellino e di quello che abbiamo continuato a fare. Io penso che oggi sarebbero orgogliosi di questi risultati. E questo era il presidente del Senato, Pietro Grasso, autore del libro Storie di sangue, amici e fantasmi, pubblicato da Feltrinelli. Dal libro di Pietro Grasso veniamo ad uno dei casi editoriali del 2017, Storie della buonanotte per bambini e ribelli, di Elena Favilli e Francesca Cavallo, con la traduzione di Loredana Baldinucci, pubblicato da Mondadori. Le due autrici sono italiane, ma vivono in California, e il libro è nato in inglese, per questo appunto c'è la traduzione. Questo libro è dedicato alle bambine ribelli di tutto il mondo. Sognate più in grande, puntate più in alto, lottate con più energia, e nel dubbio ricordate: avete ragione voi. In questo libro ci sono 100 storie di 100 donne realmente esistite o ancora viventi, che sono donne forti, rivoluzionarie, ciascuna nel suo campo. E allora ci sono nomi noti come Cleopatra, Coco Chanel, la pittrice Frida Kahlo, Margaret Thatcher, Michelle Obama, Rosa Parks, Jane Austen. Ma ci sono anche nomi poco conosciuti come Ada Lovelace, la prima persona a scrivere un programma per computer, l'alpinista Cholita Climbers, l'ingegnere della NASA Margaret Hamilton e la rapper afghana Sonita Alizade. Sono delle brevi storie di circa una pagina, illustrate. Le illustrazioni sono state fatte da 60 illustratrici provenienti da tutte le parti del mondo. Elena Favilli e Francesca Cavallo hanno creato il Timbuktu Labs, che è un laboratorio, diciamo, che si occupa di programmi, contenuti media per l'infanzia. Attraverso una campagna di crowdfunding hanno pubblicato questo libro, idealmente diretto a bambine e bambini dagli 8 anni. Sentiamo da Elena Favilli, una delle due autrici, come è nata l'idea. È nata dall'osservazione di una mancanza principalmente nei media in generale, no? Di una mancanza di presenze femminili forti, in ruoli forti, importanti come protagoniste nei film, nella pubblicità, anche nei libri molto spesso. E quindi io e Francesca Cavallo lavoravamo da anni nel mondo dei media per bambini, e quindi abbiamo deciso di partire, restare in questo settore e quindi lavorare su un libro per bambini che raccontasse storie, invece che appunto di principesse e cavalli bianchi, di eroine vere, realmente esistite nel passato e nel presente, che con le loro azioni quotidiane hanno compiuto imprese straordinarie nei campi più diversi, dalla scienza all'arte, alla cucina, allo sport. Ci sono donne da Elisabetta prima a Serena Williams, quindi da Frida Kahlo a Cleopatra, quindi attraversano il tempo e lo spazio in qualsiasi disciplina. Ecco, che criterio avete utilizzato per scegliere le donne su cui fare i ritratti? Insomma, che caratteristiche dovevano avere? Allora, diciamo, la prima caratteristica era proprio quella che dovessero riflettere una grandissima varietà di campi e di esperienze, perché il messaggio fondamentale che volevamo far passare era che queste donne, e che la ribellione, diciamo, si manifesta in in qualsiasi forma e a seconda dei contesti, no, storici, culturali, politici, davvero in qualsiasi modo. Quindi la varietà, la diversità è stata il primo criterio. L'altro criterio era la provenienza geografica, quindi volevamo davvero fare un libro molto internazionale, con un respiro molto internazionale e rappresentare donne, quindi anche da quei paesi di cui molto spesso non si sente mai parlare, diciamo, sui giornali, per cui ci sono veramente donne da ogni posto, dal Galles al Brasile, alla Cina, all'India, al Sudafrica, quindi davvero è un libro molto internazionale. E poi abbiamo scelto come terzo criterio, abbiamo selezionato quelle storie che potessero avere dei particolari nelle biografie in grado di catturare l'immaginazione dei bambini, perché molto spesso, ovviamente, quando si tratta soprattutto di personaggi monumentali, storici, grandi, no? È molto difficile trovare un angolo davvero interessante che non sia stato già raccontato, e soprattutto perché noi non volevamo fare di questo libro un'enciclopedia, ecco, volevamo davvero farne un libro di favole della buonanotte che potesse entrare nella routine quotidiana di tante famiglie e che le persone, i bambini, si potessero davvero divertire a leggere la sera prima di andare a dormire. Fermo restando che un libro naturalmente può essere letto da chiunque e in qualsiasi età, però nel momento in cui l'avete scritto, a che tipo di lettore tipo avete pensato? Ma avevamo in mente una lettura davvero congiunta di genitori e bambini insieme, perché questo è stato un po' sempre il centro della nostra ricerca artistica, con tutti i nostri libri e anche app, perché con la nostra azienda Timbuktu in precedenza avevamo soprattutto lavorato sui media digitali e in particolare sulle app, e abbiamo sempre, diciamo, l'estetica di Timbuktu è sempre stata quella di mettere il rapporto, la relazione tra bambino e genitore al centro dei nostri progetti, e quindi davvero l'abbiamo pensato in questo modo, ed effettivamente il risultato è poi che le persone di ogni età comprano questo libro e leggono questo libro, perché effettivamente riesce ad arrivare in modo molto trasversale a tutti. L'averlo intitolato Storia della buonanotte per bambine ribelli, quindi aver messo nel titolo un riferimento al pubblico femminile, pensi possa limitare l'accesso, per esempio, ai bambini che pensano: ah no, è un libro dedicato alle bambine, quindi io non lo leggo? No, guarda, noi, diciamo, riceviamo continuamente, ti puoi immaginare, adesso il libro è pubblicato in 30 lingue, per cui riceviamo davvero continuamente foto di bambine e di bambini che leggono questo libro. La scelta di chiamarlo Storia della buonanotte per bambine ribelli ovviamente era principalmente una dedica. Questo libro è stato concepito, realizzato con una grande passione, no? Sia io che Francesca, è nato proprio da una profonda esigenza personale di fare qualcosa che per una volta fosse dedicato solo alle bambine, almeno, diciamo, apertamente. Poi è ovvio che nell'uso i bambini si divertono a leggere queste storie, perché sono poi storie avventurose, incredibili, e quindi non stanno troppo a pensare, no, molto spesso non si accorgono neanche che sono storie che hanno per protagoniste solo donne, perché come noi non ci accorgevamo leggendo Pinocchio, no, o L'isola del tesoro, che i protagonisti erano solo uomini, loro si divertono leggendo queste storie, quindi è stato proprio fatto con questa intenzione. Questo è un libro che ha avuto un successo strepitoso, è stato ai vertici delle classifiche in Italia per molto tempo, appunto tradotto in varie lingue, venduto in tanti paesi. Onestamente, vi aspettavate questo genere di reazione da parte del pubblico? No, devo dire che non ci aspettavamo un successo così grande e così rapido, soprattutto su scala internazionale. Ci aspettavamo che il libro sarebbe andato bene, perché l'abbiamo lanciato negli Stati Uniti, dove appunto viviamo e lavoriamo con la nostra azienda, e quindi è nato in inglese attraverso una campagna di crowdfunding che aveva avuto molto successo, no? È stato di fatto il libro più finanziato nella storia del crowdfunding. Quindi sicuramente ci aspettavamo che poi anche la ricezione del pubblico fosse altrettanto entusiasta, però poi è sempre molto difficile invece prevedere che un libro diventerà di fatto un bestseller internazionale. Adesso tra l'altro è nella top 10 del New York Times, tra i bestseller del New York Times, quindi queste poi sono cose che escono dal tuo controllo e davvero sono molto, no, che non ci aspettavamo di ottenere così rapidamente. E questa era Elena Favilli, che con Francesca Cavallo è autrice del libro Storie della buonanotte per bambine ribelli, pubblicato da Mondadori. È stato uno dei casi editoriali del 2017. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS,